Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il giorno dopo l'ennesimo accoltellamento tra giovani stranieri avvenuto a Trieste, in pieno centro città, e caccia i responsabili mentre ci si interroga sul ripetersi, con sempre più frequenza, di episodi di violenza in città. Un anziano è stato travolto da un trattore in un incidente sul lavoro a Buia e trasportato all'ospedale di Udine. Non sembrerebbe in pericolo di vita. Abbigliamento e profumi contraffatti. La Guardia di Finanza di Pordenone sequestra 314 pezzi venduti online. Riproducevano beni di marchi della moda, ma erano falsi. Venivano da Cina e Turchia. 8 i denunciati. Sanzioni agli acquirenti. Sopralluogo questa mattina nel nuovo ospedale di Pordenone da parte dell'assessore alla salute Riccardi. Se tutto procederà secondo i termini e le scadenze, la struttura dovrebbe essere pronta e accessibile entro la fine dell'anno. Dal 1 gennaio le ricette mediche dovranno essere in formato elettronico o digitale, una novità accolta con favore da medici, farmacisti e associazioni dei consumatori, ma rimangono alcuni dubbi da chiarire. Le cure palliative della persona adulta in Friuli Venezia Giulia, quale modello di cura, e il convegno che a Udine vuole fare il punto sul trattamento delle persone che necessitano di trattamenti adeguati al miglioramento della qualità di vita con una riduzione dei sintomi. In questi giorni e per la seconda volta in novembre è visibile nel cielo di notte l'affascinante sciame meteorico delle Tauridi, le cosiddette stelle cadenti d'autunno che qualcuno aveva scambiato per oggetti volanti. Ne parleremo con un esperto. Due grandi eventi arriveranno in regione nei prossimi mesi. La star inglese della musica Robbie Williams porterà il 17 luglio allo Stadio Rocco di Trieste l'unico concerto live italiano del suo nuovo tour. Nell'ambito del palinsesto di Go 2025 in France a Palazzo Athens di Gorizia, dal 20 dicembre aprirà la mostra Andy Warhol Beyond Borders, dedicata al fondatore della pop art. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 11 novembre, San Martino. In apertura ancora la cronaca, il giorno dopo l'ennesimo accoltellamento tra giovani stranieri a Trieste, accaduto nel pomeriggio di ieri appunto in Largo Bonifacio all'inizio di Viale 20 Settembre, alla presenza di numerose persone fra le quali diverse famiglie che erano presenti in quel momento in pieno centro città. A rimanere ferito ma non in pericolo di vita un 18enne di origine kosovare colpito da 4 coetanei con 2 fendenti alla schiena che sono poi riusciti a far perdere le tracce e sono ricercati dalle forze dell'ordine anche grazie all'ausilio delle telecamere nella zona e al racconto di diversi testimoni presenti. È solo l'ultimo di una serie di episodi gravi di violenza che le cronache riportano ormai quasi quotidianamente e che stanno facendo salire il livello di allarme dei residenti. Di telecamere Largo Bonifacio è tappezzata. Ci sono quelle installate dal comune di Trieste, implementate negli ultimi mesi, ma anche quelle messe dai titolari di bar e pizzerie. Non sarà difficile, dicono fonti investigative, individuare i responsabili della rissa avvenuta ieri nel primo pomeriggio nei pressi della fontana, all'inizio del viale 20 settembre. Un kosovaro di 18 anni è stato pugnalato alla schiena. La ferita, per fortuna, non è andata in profondità, probabilmente grazie, spiegano i soccorritori, a giubbotto e vestiti pesanti indossati dal giovane trasportato in codice giallo a Catinara. Gli aggressori, 3 o 4, forse non solo stranieri, si sono dileguati subito, ma appunto, dice la polizia, saranno individuati a breve grazie alle tante telecamere di videosorveglianza che nel tempo sempre più locali hanno installato. La domenica, quando siamo chiusi, ci racconta una proprietaria di un bar, abbiamo subito atti di vandalismo, quindi abbiamo messo le telecamere esterne. Non è la prima volta che in Viale 20 Settembre si registrano risse e aggressioni tra bande. Cittadini ed esercenti sono preoccupati. Gente ubriaca o aggressiva purtroppo capita spesso, ci racconta il titolare di una tabaccheria. Non è solo il Viale 20 Settembre il problema, dice invece una gelataia. Un tempo la criminalità era in periferia, borgo, altura. Oggi invece è in centro città. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, questa mattina intorno alle 9:30 a Buia in via Quel di Spia in un'azienda agricola è avvenuto un incidente sul lavoro a danno di un uomo 72enne che è stato travolto da un trattore. Ancora non chiaro se il mezzo si sia ribaltato o abbia schiacciato il malcapitato che aveva affiancato 2 trattori per avviarne uno grazie alla batteria dell'altro, lasciando però uno dei 2 con la marcia inserita e venendo così investito. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Udine in codice giallo e dalle prime notizie disponibili non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gemona, i vigili del fuoco di Udine e l'ispettorato del lavoro per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato 8 persone per la vendita di capi d'abbigliamento di prestigiosi marchi e profumi contraffatti su noti social network e siti di e-commerce. L'indagine è partita dall'approfondimento della posizione di una donna quarantenne di Fontana Fredda che utilizzava piattaforme online per vendere articoli di abbigliamento e profumeria a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato. La rete includeva una persona dalla provincia di Udine e altre 6 che operavano in diverse zone d'Italia, nelle cui abitazioni finanziarie hanno rivenuto e sequestrato articoli contraffatti provenienti da diversi paesi, tra cui Cina e Turchia. Le indagini hanno poi permesso di tracciare i pagamenti effettuati dagli acquirenti utilizzando carte prepagate e di individuare 73 persone sparse sul territorio nazionale che sono state sanzionate per aver acquistato prodotti falsi, con sanzioni comprese tra i 300 e i 7.000 euro. C'è stato un sopralluogo questa mattina nel nuovo ospedale di Pordenone da parte dell'assessore alla salute Riccardi. Se tutto procederà secondo i termini e le scadenze previste, la struttura dovrebbe essere pronta e fruibile entro la fine dell'anno. Il nuovo ospedale di Pordenone sarà aperto al pubblico a breve, forse già entro l'anno, se si riusciranno a svolgere i collaudi. Oggi sopralluogo dell'assessore alla sanità Riccardo Riccardi, accompagnato dal direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale Giuseppe Tonutti e dal presidente della Commissione regionale salute Carlo Bolsonello. L'opera è costata 272 milioni, più di quanto inizialmente previsto a causa dell'inflazione. La nuova struttura diventerà operativa in 4 fasi. La prima interesserà la medicina interna, il pronto soccorso e la radiologia d'urgenza. L'obiettivo è completare il trasloco entro la metà del prossimo anno. 500 i posti letto previsti, 11 sale operatorie, 2 risonanze e 2 TAC. Il trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale è stato rinviato rispetto al precedente cronoprogramma che prevedeva di completare lo spostamento entro il 2024, l'ultimo di una serie di ritardi dovuti al periodo del Covid, ha spiegato Riccardi. I padiglioni dell'ospedale vecchio, tranne l'H, saranno abbattuti al termine del passaggio al nuovo. Quegli spazi saranno consegnati ai cittadini, in previsione posteggi e un parco. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal 1 gennaio del prossimo anno, secondo l'articolo 54 della manovra finanziaria del governo, tutte le ricette mediche dovranno essere in formato elettronico. La novità è stata accolta con favore da medici, farmacisti e associazioni dei consumatori, non senza però dubbi legati soprattutto alle ancora persistenti criticità della rete informatica e alle categorie fragili che non hanno accesso a supporti digitali. Il provvedimento riguarda la ricetta bianca per i farmaci di fascia C, quelli a carico del cittadino, ossia a pagamento, come ad esempio gli ansiolitici. Dall'anno prossimo dovrà passare al formato telematico. Via mail i pazienti riceveranno la prescrizione dal loro medico, come già avviene per quella rossa, riguardante molti farmaci di fascia A, cioè a carico dello Stato. L'obiettivo è quello di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, ma medici e farmacisti sollevano dubbi. Perplesso sul concetto di appropriatezza prescrittiva, al segretario regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale, Fernando Agrusti, sfugge l'aspetto di ulteriore controllo. Nulla in contrario comunque sulla dematerializzazione delle ricette bianche, ma c'è da capire, afferma, se il sistema informatico sia pronto a gestirla, dato che già adesso in tutta Italia funziona con criticità. Tra ottobre e novembre ha funzionato a singhiozzo, con forti disagi per pazienti e medici, ricorda il presidente regionale dello SNAMI, Stefano Vignando, che richiama anche la necessità di incentivi per tutti i medici che investono nelle infrastrutture tecnologiche e che soprattutto vengano attrezzati alla dematerializzazione e all'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico anche gli specialisti ospedalieri e della sanità privata convenzionata. Il presidente regionale di Federpharma, Luca De Grassi, approva il passo avanti che a suo avviso migliora la farmacovigilanza, pur esprimendo le medesime perplessità dei medici sulla funzionalità dell'attuale sistema informatico e con l'auspicio che in emergenza resti garantita la vecchia ricetta cartacea, preoccupazioni condivise anche dalla presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis, pur approvando la dematerializzazione perché semplifica e abbrevia modi e tempi per il rilascio delle prescrizioni, dice, con l'augurio però che ci sia un supporto da parte dei medici prescrittori per anziani e utenti non digitalizzati. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Le cure palliative della persona adulta in Friuli Venezia Giulia, quale modello di cura? E questo è il titolo del convegno che a Udine vuole fare il punto sul trattamento delle persone che necessitano di trattamenti adeguati al miglioramento della propria qualità di vita e con una riduzione dei sintomi. Entro il 2028 l'Italia si è posta come obiettivo intercettare il 90% del bisogno di cure palliative. Il Friuli Venezia Giulia riesce già a garantirle una percentuale di richiedenti compresa tra l'84% e il 90%. Si tratta dell'insieme di attenzioni, non solo farmacologiche, volte a migliorare il più possibile la qualità della vita sia di chi ha una malattia avanzata e inguaribile, sia della sua famiglia in fase terminale o precoce. In regione si stima siano oltre 6.000 le persone con necessità di cure palliative specialistiche, più circa 8.000 che possono essere gestite da medici di medicina generale formati, ovvero 10 pazienti per ogni dottore. Cifre fornite da ARCS, l'azienda regionale coordinamento salute, nel corso di un convegno regionale a Udine introdotto dall'assessore alla salute Riccardi. La sfida, capire come intercettare il mondo invisibile dei pazienti fragili che non vengono segnalati alla rete delle cure palliative. Esiste dal 2016 in Friuli Venezia Giulia e come da normativa nazionale viene potenziata anno dopo anno. Del 2023 l'ultimo stanziamento da 500.000 euro per acquisto di beni e servizi. Le reti sono coordinate da un gruppo multidisciplinare, medici palliativisti, infermieri, medici di medicina generale, psicologi, ma ne fanno parte anche cittadini e associazioni di volontariato, così da garantire, indica il dottor Mario Calci di ARCS, che le prestazioni siano erogate in maniera uniforme su tutto il territorio. Per chi avesse necessità, il primo passo è rivolgersi al medico di base. Quindi la richiesta passa al distretto di appartenenza e alle neonate COT, centrali operative territoriali, punto di coordinamento tra attività sanitarie, sociosanitarie e territoriali. Qui arrivano le domande dei cittadini che, afferma Anna Maria Conte, coordinatrice regionale, vengono poi smistate ai nuclei per le cure palliative. Solo il 30% di chi ne ha bisogno sono pazienti oncologici. Importante capire, conclude la dottoressa Conte, che ogni tipo di patologia può nascondere un bisogno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calendario dei grandi eventi ospitati in Friuli Venezia Giulia si arricchisce di due iniziative di rilievo. L'unica tappa italiana del tour Robbie Williams Live 2025, che vedrà la star inglese esibirsi il giovedì 17 luglio allo stadio Nereo Rocco di Trieste, e la mostra Andy Warhol Beyond Borders, dedicata al fondatore della pop art, che sarà ospitata a Palazzo Athens di Gorizia dal 20 dicembre al 4 maggio. Ad annunciarlo questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, che ha evidenziato come la rassegna su Andy Warhol rientri nel contesto di Go 2025 e offrirà uno spaccato del lavoro e della vita dell'artista, padre della pop art, con decine di opere, installazioni multimediali e fotografie d'autore che ne ripercorrono la carriera artistica e la vita. Per commemorare i caduti delle 19 nazioni coinvolte nel primo conflitto mondiale che hanno operato in regione, tra cui Austria, Bosnia, Cechia, Cina, Giappone, Russia, Slovenia, Stati Uniti e Ucraina, l'Associazione dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia e altri enti territoriali hanno organizzato questa mattina una doppia cerimonia al Sacrario Militare di Re di Puglia e alla Rapacis Mundi di Medea, in occasione della firma dell'armistizio di Compiègne tra l'impero tedesco e le potenze alleate. Per l'occasione un corteo è affluito dal Colle Sant'Elia verso il Sacrario Militare, dove c'è stata la deposizione di una corona d'alloro, e a seguire si è stato un ammassamento di ritrovo alla Rapacis. La seduta di Consiglio Comunale di Trieste, in cui si discuteranno gli interventi di riqualificazione dell'area del Porto Vecchio in partenariato pubblico e privato, è in programma oggi alle 18 e sarà accessibile sul canale YouTube del Consiglio Comunale. 12.44, passiamo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10.5 gradi, a Gorizia 11, a Pordenone 11.5 gradi, a Udine 12, in Area Montana a Tarvisio 0,5 gradi sotto lo zero, a Sappada 3, a Piancavallo 9, a Tolmezzo 11 gradi, a Forni di Sopra 11.5 gradi, in quota sul Monte Lussari 1 grado e sul Monte Zoncolan 4 gradi, sulla costa a Lignano 12, a Grado 12.5 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio avremo cielo in genere sereno, in pianura soffierà vento di bora moderata, più sostenuta sulla costa, specie sul Golfo di Trieste. In questi giorni è per la seconda volta in novembre visibile nel cielo lo sciame meteorico delle Tauride, delle stelle cadenti d'autunno. Se ne è parlato questa mattina nella nostra trasmissione mattutina. Buongiorno Regione. Non serve aspettare la notte di San Lorenzo per avere l'occasione di esprimere un desiderio, perché le stelle cadenti si fanno vedere tutti i mesi. Il cielo di novembre ci sta offrendo uno spettacolo astronomico meraviglioso con le Tauridi, un peculiare sciame meteorico che sta raggiungendo il secondo picco proprio tra oggi e domani. Ma perché le stelle cadenti invernali, che sono spesso anche le più belle, sono poco conosciute? Ce lo spiega Mauro Messerotti dell'Osservatorio Astronomico di Trieste e docente di meteorologia spaziale all'Università di Trieste. Sono poco note le Tauridi, quindi le persone non seguono e probabilmente noi stessi come professionisti non facciamo sufficiente pubblicità, perché il marketing è fondamentale, il fatto che si possono osservare. Ecco, gli amatori astronomi senz'altro le conoscono e anche le osservano. Le stelle cadenti sono frammenti di corpi celesti che fluttuano nello spazio ed entrano nella nostra atmosfera quando la Terra, nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole, attraversa la loro area. I sciami meteorici, di solito i frammentini vanno da qualche millimetro a qualche centimetro, ma possono esserci dei bolidi che hanno anche da 10 centimetri a qualche decina di centimetri. Sono quelli che fanno le tracce più luminose quando penetrano in atmosfera e pertanto si riscaldano e poi si vaporizzano sostanzialmente. Anche se composti da piccoli frammenti, gli sciami meteorici rappresentano un rischio e le agenzie spaziali li stanno monitorando costantemente. Raramente si verificano quelle che noi chiamiamo tempeste meteoriche, dove abbiamo più di 1000 meteore all'ora. Questo può modificare da un lato le comunicazioni radio, per esempio quando si sta lanciando un satellite che viene lanciato con un missile ovviamente in orbita, oppure diciamo proprio per l'integrità fisica di pannelli solari e così via. Dove vanno a finire questi frammenti che attraversano la nostra atmosfera? Solitamente si vaporizzano, non arrivano al suolo, a parte i bolidi che sono un pochettino più grandi, allora possono anche arrivare solitamente negli oceani, perché gli oceani ricoprono i 2/3 della superficie della Terra. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport con il calcio, con i commenti del giorno dopo la sconfitta dell'Udinese a Bergamo contro l'Atalanta per 2-1 che lascia rimpianti ai bianconeri anche per una direzione di gara molto contestata. No VAR, no penalty, non c'è da festeggiare per l'Udinese sconfitta a Bergamo dopo un gran primo tempo. Il bellissimo gol di Camarà, occasioni per il raddoppio non sfruttate da Toven nella ripresa e un'autorete di Touré per la vittoria, la sesta di fila in campionato dell'Atalanta. Prima di scendere però dall'altalena delle emozioni, i friulani a giusto diritto si lamentano per il rigore non concesso per fallo di mano di Ien. Nessun richiamo dall'arbitro al VAR, dallo stesso La Penna, protagonista dell'annullamento per fuorigioco millimetrico del gol di Cabasele a San Siro contro il Milan. Sentiamo il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani. Io già dalla tribuna mi sono accorto in maniera chiara del fallo di mano e per me era un rigore evidente, perché il calciatore va con la mano verso il rigore. Posso capire l'arbitro che non l'ha visto, ma il VAR, che poi mi dico che al VAR c'era la stessa persona che ha indicato un fuorigioco di un millimetro o mezzo millimetro, qualcosa del genere. Bravo, bravissimo, complimenti. Questo gli faccio i complimenti, è stato bravo. Ho capito, ma fallo di mano mi sembrava che fosse un po' più evidente del millimetro. Allora, quando tu mi dai un fuorigioco per un millimetro, io ti dico che hai fatto bene e che è giusto così. Ma questo fallo di mano al VAR, perché non l'hanno visto quando io l'ho visto dalla tribuna? La Dea ha comunque tremato contro un'Udinese trascinata da Davis. Anche sulla rete annullata all'inglese rimangono molti dubbi, e da Camarà, che avrebbe voluto festeggiare con punti il suo primo gol in campionato. Per me dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco. L'arbitro può sbagliare, il giocatore sbagliando anche. Noi dobbiamo essere concentrati su quello che facciamo noi e dopo le cose bene vengono. La classifica prima della pausa non cambia, quota 16 a meno 2 dal settimo posto dopo 2 KO consecutivi, 4 nelle gare in trasferta, e alla ripresa c'è la sfida a Empoli lunedì 25 novembre. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel basket di A2 si interrompe dopo 5 vittorie la striscia positiva dell'APU Udine, sconfitta a Brindisi per 89-81, che ora in classifica è terza dopo Rimini e Cividale. Mercoledì al Carnera la sfida con Forlì. Sentiamo il commento post gara del coach dei friulani, Adriano Vertemati. Devo fare complimenti a Brindisi, perché ha giocato una partita con una grandissima energia, ha anche tirato molto bene da 3 punti, facendo diversi canestri di fiducia alla fine dei 24 secondi, ne ricordo almeno 2 di Radonjić e se non erro uno di Almeida, proprio alla fine dei 24 secondi dopo ottime difese da parte nostra. Non ho molto da recriminare se non sull'approccio iniziale, i primi 3-4 minuti, e in generale sul secondo quarto abbiamo avuto un livello di energia molto basso e loro ci hanno punito con tantissimi tiri, ma i ragazzi hanno combattuto con tutte le loro energie. Siamo tornati a 3 punti nel finale e abbiamo avuto la chance di provare a vincere questa partita, nonostante in generale abbiamo avuto molto poco dentro l'area, abbiamo avuto davvero molto poco in avvicinamento al canestro, e quindi questo ha fatto sì che Brindisi chiudesse ancora di più e ci lasciasse praticamente solo l'opportunità dal perimetro, dove abbiamo anche tirato abbastanza bene, ma non è bastato. La squadra, come sempre, ha combattuto fino alla fine e adesso non ci resta che pensare alla partita di mercoledì. Passiamo al volley per la Serie 1 femminile. Torniamo a parlare della netta sconfitta per la CDA Talma Sons, che a Pinerolo ha perso per 3-7-0 contro le piemontesi. La prossima gara per le friulane è in calendario domenica, la Tisana contro Milano. Un 3-0 un po' troppo severo contro una diretta concorrente, ma la CDA ha un'ottima circostanza attenuante, l'infortunio non grave che l'ha privata dal secondo set dell'Alash Cherban, il terminale offensivo di solito più efficace per la squadra allenata da Barbieri. Il primo set a ranghi completi è stato il più tirato, anzi era stato il Talma Sons a portarsi avanti di 5 lunghezze, poi recuperate da Pinerolo. Le friulane hanno annullato 2 set point, ma le padrone di casa non hanno mollato, siglando il punto del 26-24 con un muro su primo tempo un po' staccato da reti di Kocic. Dal secondo set è stato un altro match, con Scherban fuori, sostituita da Piomboni. Nel Pinerolo la palleggiatrice Cambi, campionessa olimpica a Parigi, ha diretto ottimamente il gioco ed è pure riuscita a mettere a segno qualche punto. Talma Sons è andata sotto di qualche lunghezza e non è più riuscita a recuperare, chiusura sul 25-18. La supremazia delle padrone di casa, ancora prive della friulana Dodorico, reduce da un infortunio, è parsa ancora più netta nel terzo set. Barbieri ha provato a ruotare le giocatrici a disposizione, inserendo Pamio e Gannar. Pinerolo si è trovata avanti 19-11, poi c'è stata una bella reazione della CDA, che è riuscita a rendere meno pesante il passivo, ma non è bastato per ribaltare il set, concluso sul 25-20. Rispetto ad altri incontri, le percentuali in ricezione delle friulane sono state migliori. Le attaccanti hanno però faticato a passare, concedendo 7 muri punto alle avversarie. Domenica alla Tisana arriva il vero volley Milano, nel quale è tornata in campo la Egonu dopo un'assenza che dura dal precampionato, e nella squadra di Lavarini giocano altre 3 campionesse olimpiche, Orro, Danesi, Silla. Sarà durissima. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti di oggi in regione: specialità e differenziazione regionale, il tema della conferenza organizzata dall'Associazione Toscana in Friuli Venezia Giulia, in programma Udine a Palazzo Antonini alle 17.30. La resistenza in Germania è l'intervento che sarà condotto da Fiammetta Balestracci dell'Università di Napoli Federico II a Trieste, nell'aula magna dell'Università in via Baciocchi alle 18. Il ciclo Il lunedì dello Schmidl proporrà oggi un incontro dedicato a Marco Sofianopulo nel decennale della sua scomparsa, a Trieste, a Palazzo Gop. Alle 17.30. Pier Giorgio Ardeni presenterà il suo libro intitolato Le classi sociali in Italia oggi a Trieste, la libreria Lovata, alle 17.30. Le vie parallele di Guglielmo Del Vecchio, il tema della conferenza che sarà condotta da Flavio Ghio a Trieste, alla Società Alpina delle Giulie, in via Donota, alle 18. Per gli spettacoli, la 17ª edizione del Piccolo Festival dell'Animazione prosegue con il mediometraggio La voce delle sirene di Gianluigi Toccafondo a Trieste, nello studio Tommaseo, in via del Monte, alle 17. E infine si intitola Barbie e Ken, riflessioni su una felicità imposta, lo spettacolo in cartellone a Trieste al Teatro Miela, con inizio alle 20.30. E alle 12.53 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoici e Walter Vidolis. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.